anche su Facebook si è messo un altro nome, ma avanti chi vuole entrare, mi sono controinformato, no, non vuole entrare nessuno giù. Vabbè, vuol dire, comunque sono sicuro che anche molti CB, anche vecchi, saranno in ascolto, me non vuole entrare dalla mandrulia, vogliono rimanere incogniti. È possibile che qualcuno sia all'ascolto, non ci sono dubbi, però se non ne hanno voglia, pazienza, è cosa noi non possiamo obbligare nessuno, ci fa piacere se entrano, però se non vogliono entrare, pazienza, vuol dire avremo modo di sentirci in altri momenti, per cui è così. Sì, vediamo un po' se Antonio ha finito col bambino. Antonio? Sì, ho finito adesso, mi ho messo mi fai col triciclo, tu suona. Suona tu, suona capo, suona. Fai col triciclo tu. Sì, ho finito adesso, ho finito. Hai visto? Quella è una cosa che dovevi fare, che ti tocca fare sempre. È ovvio, tu, il bambino ha bisogno dell'attenzione, della massima attenzione, perché è piccolino e dunque è meglio sempre seguirlo. Poi se non gli fai tu queste cose, chi gli fa? Va bene, dai, avanti Tony. Io mangio fatto due mani, beh, due grandi, mia moglie ha fatto il grande figlio. Però io grazie a Dio. Ora mio figlio, dunque, compie esattamente nel 79, fatti conto Giulio. Quanti anni ha mio figlio? E mia figlia invece dell'86. Ma c'è femmina, giocata la doppia bombata. Se non prenderà 45 anni, una parola del genere. Così è Giulio. C'è l'età di mia sorella qua figlia. Sono 86. Sì, 86 mia figlia. Mio figlio è 79. Ma è l'unica mia sorella, c'è una figlia dell'età di qua figlia. Non so di che mese sia, né di maggio. Non lo so. E comunque c'ha 45 anni mio figlio. Avanti giù. 45, e la mia è la 50, tu immagina? Vabbè, comunque, vabbè, io ho 82, che ti puoi immaginare, 82 e 6 mesi, tra l'altro. E se Dio vuole sto andando verso gli 83, se Dio mi lascia, se no pazienza, e cosa vuoi fare? Sia fatta la sua volontà. Avanti, Antu. Vabbè, giù. Che ti lascia fino a 30 anni, anche no. Che devo fare? Purtroppo non si sa mai, oggi ci siamo, domani non ci siamo. E per quello che dico sempre, ma perché per capo non andiamo d'accordo nella vita invece di scannarci e farci a pezzi, capo? Come fanno certi? Ma perché non si va d'accordo? Infatti, ragionandoci un attimino in maniera obiettiva, ma allora noi bisticciamo, ma siamo di cretini se bisticciamo, secondo me, io la penso così, però tutto questo avviene dopo, magari a mente fredda, e nel momento sai cosa succede, l'umore di uno può essere un pochino nel momento alterato, l'altro ti risponde per le rime e così via, ecco che succedono i bisticci e i disaccordi, però come ho detto prima, tutto quello bisogna lasciarlo a perdere, perché poi le ferite, il tempo le guarisce sempre e bisogna sempre saper perdonare. Questa è una cosa molto ma molto importante che ogni essere umano dovrebbe avere in se stesso, cioè saper perdonare, il dono di saper perdonare secondo me è importantissimo. Avanti Tony. Ma basta essere tutti tranquilli e sereni, dai, la vita continua, la grande, siamo di passaggio qua sulla terra, e cosa ci scorniamo uno con l'altro, ma andare, ma signori dai, io mi lascio perché sospetto tutto, che sono fissato con questa ruota della fortuna che alle 5 per poi inizia con Giri Scutti, mi piace, tutti i programmi di Giri Scutti me ne guardo. Ok, così poi si prepara anche per un po' di cena. D'accordo, io vi do un caro saluto, spero di trovarvi di nuovo in frequenza, così ci sentiamo, un altro microfono, ce la faremo. grazie per la compagnia, ciao Giulio, ciao Antonio, poi proseguo, ce la risentiamo, statevi bene, riprendete, ciao ciao. E guarda se arroterà fortuna. Ciao Tony, grazie a te per la compagnia, ti ringrazio veramente, guarda, di cuore. Sono molto contento di averti risentito, per cui spero di risentirti molto presto, così almeno possiamo scambiare ancora quattro chiacchiere in santa pace come abbiamo fatto stasera. E soprattutto in buona luce. Ciao di nuovo Tony, grazie ancora, buona trasmissione. Dai. A proposito di Giudicotti, era stasera era ospite, intervistato da quella moglie di Berlusconi, in quel programma che fa la serale. Ma poi sta parlando Giulio. Il sabato la fa quella programma lì. E c'era anche stato intervistato da quella donna lì. Va bene, di nuovo buonasera Tony, alle prossime, dai. Grazie ancora per le quattro chiacchiere, vai Antu. Aspetta che ho sentito a mio figliuccio, MCGB. E va a guardare la ruota della fortuna, parto foraio. Mica tu sei parto foraio dentro un milione, cara. Noi siamo un bel po' già in frequenza e tu entri a quest'ora, cara. La mazza, comunque già ci vediamo, CGB dai. Che cerchiamo di organizzarci qualcosa di positivo, e c'ho questi lavoretti qua da fare, un bel po', spero che non piova, cara. Già ce la vediamo, fammi bene Emanuele, un abbraccio così grande, ciao ciao, ripeti. Ciao a tutti, chiudo, dai, sono stato già salutato, che devo andare anche a lavorare, vedevo preparare, e sono di servizio tra noi. Sta parlando, non lo so, Emanuele, io non ti sento, se stai parlando, non vorrei sovrammudolarti, fai in modo che ti possa sentire anch'io, Emanuele, perché tutte le volte che sei in frequenza io non riesco mai a sentirti, e questo mi dispiace, dai, perché vorrei sentire la tua voce anche, così almeno possiamo scambiare quattro chiacchiere anche con te. Antonio, avanti. Ci ho salutato a tutti. Mi hai sentito, l'altro, chiedi se mi ha sentito Emanuele, io a lui non riesco mai a sentirlo, lui ha un'antenna un po' scadente, se lui facesse... Sì, già lo sento, dai, ci sentiamo anche lui. Sarei contento. Sì. Tu fammi la ponte. Capo, ha detto che lui ti sente, ti saluta, ha detto. No, qua arriva con lo scala, arriva, vabbè. Io comunque sia c'ho una ricezione, una rura, sento tutti io. Lo so, ma qui non arriva nemmeno il segnale, non arriva niente, brutto. Soprattutto quando c'è QRM. E mi dispiace perché Emanuele e noi ci conosciamo tanti anni, ci conosciamo, per cui io ero soprattutto amico del padre, eccetera, eccetera. Ma boh, a parte altri motivi anche, che risultava familiare, ma questo è tutto un altro discorso. Non con me direttamente, ma con mio cugino, eccetera. Va bene, Emanuele, non so cosa dirti, guarda, io ripeto, non ti sento e mi dispiace non riuscire ad ascoltarti. Questo, cerca di fare qualcosina, un antennino così, da quattro soldi, per poter cercare di uscire appena appena più forte, per poterti ascoltare anch'io. Tutto lì. Ok, riprende Emanuele, se mi hai ascoltato, casomai Antonio mi fa la ponte. Beh, ha già chiuso. Ah, già chiuso? Vabbè, pazienza, dai. Avremo modo di sentirci. E così al tuo. E vabbè, allora il bagnetto l'hai fatto al bambino. Adesso gli prepari da mangiare, così è. No, oggi andiamo a casa della zia che ci ha invitato a mangiare la pizza. Ho capito. Sì. E molto probabilmente anche noi stanotte la pizza, io suppongo che sia così, Vabbè, a pranzo ho mangiato l'umacuri, a me mi piace un bel, e poi pasta asciutta. E tiriamo avanti. Ma stanotte sicuramente ci sarà la pizza anche qua. Adesso sto aspettando che rientri mia figlia, mio genero, eccetera, eccetera. Per cui sicuramente avremo la pizza stanotte. Ciao, hola. Ma com'è c'è questa pizza? Era un bel tempo fermo questo 87, come un anno fa. Va benissimo, come dice, va benissimo, è anche troppo forte il segnale a fondo scala o altro. per cui meglio di così cosa te devo dire? Segnale oltre al 9.30 non te ne posso dire, perché lo smitter mio, ora lo sai, di quelli digitale, e arriva al 9.30. E questo schiaccia tutti i cosi, i simboli che ci sono, per cui li accendi tutti, e oltre magari sia anche 9.40, ma non va oltre, per cui 9.30 c'è scritto, 9.30 ti dico o altro. Certo, è eccezionale questa antenna, no? Non riposo di nulla, non me ne sono pentito, manco appena di averla comprata qua. Buonissima proprio. Questa Jeep della Siria è una bomba. Come la mia, uguale. L'hai comprata? 60 euro. È fantastica. C'è anche le... nello stile sopra c'ha la gabbia antistatica. Campa, ti arrivati per tuo fuoco stasera, io l'hai combinato. Sto usando quell'antenna, sto usando. Cosa ho combinato? Mica sto usando la più 2000 euro della macchina, no? Minchia, se... in questo apparecchio sei 9.30, sì. Non so quanto ti arrivo io, qua. Non mi sono convinto tu, ma nulla, è eccezionale. Se la vuoi 20 a picchi positivi, tu dovresti vedere in che condizioni ha ridotto la Mantova. L'ho regalata da Lino Suzzi, l'ha smontata lui, la bobina che c'è all'interno della... in pratica sotto la plastica l'ha completamente sciolta, saldata al metallo. Cappa, adesso vediamo un po' quando arrivi qua. Cazzo, sei un bel forte, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, 9, 15, radio 5, con questo. Già va bene, sono contento. Questo è un'antenna, vabbè, ne avevo già avuto tre, la verità, come ho pigliato la Mantova, la 7.040, ma è incolato. Due televisori e tutto il resto, capito? Ha fatto un sacco di danno, ma ha fatto. Per quello che ho preso quello di Antonio mio, Antonio giù abitava nella sala di sorso, già lo sai, a tutto delta 1. Ho preso la sua perché lui si è trasferito su in continente, mi ha detto dice la vuoi, c'è l'apparecchiatura mia, gli ho detto va bene, dammela, gli ho detto. Ho detto quanto vuoi, Antonio, mi ha detto 60 euro, dammela veloce, gli ho detto buona cosa a casa e te la sto pagando. E infatti l'ho presa, poi mi ha regalato 40 metri di registro, dice tutto felice, nuovo, l'apparecchio, ho detto no, quello ho detto, non mi serve, ce l'ho già, anzi l'altro ho detto l'ho anche venduto, con le 4.000, gli ho detto quindi non me ne faccio niente. Mettere gli apparecchi fermi a un certo punto a guastarsi, ho detto che sto vendolo, infatti l'ho venduto con le 4.000, 120 euro e sono contento di averlo fatto, non mi sono mica pentito la verità. Ma perché l'hai presa da Paoletti? No, lui l'ha comprata, l'ha privata, l'ha comprata da internet. Campa, eccezionale, Sirio, una bomba, non so quanto arrivi da Giulio, ma qua arrivi fortissimo, arrivi. Cioè con l'altro apparecchio segna un po' di meno, quasi 9.20 però pieno, ma pieno vero però, c'è una bomba, sì. Qui da me 9.15 a Torello arriva benissimo, il segnale è altissimo, per cui cosa stai usando? Il 140 Antonio stai usando? Sì, 140 sto usando, con 40 watt. Sì, 9.15 qua da me, con questo non so quanto sia preciso, perché tu lo sai, io ho lo smitter di quelli digitale o a barrette, mi arrivi oltre il 9.10, praticamente tra il 9.10 e il 9.20, per cui valutabile 9.15, perciò è così, segnale buono, dai. Io sto usando appena 2 watt, così, no? Come sempre, insomma, ecco, ma ma già mi sentono, non c'è bisogno, non ho bisogno di comprare il legnare, di comprare niente, non me la puttina, e mi sentono tranquillamente, la radio è buona, perlomeno mi hanno sempre detto che è buona, e allora tengo così e basta, per fare quattro chiacchiere sono più che contento così, Antonio. E anche io non mi lamento, perciò va bene così come sto uscendo. Poi stavo divertendo perché stavo ascoltando dove c'era Provici sul Distiguard, no, e usano quegli apparecchi blondi, cioè, e c'era uno che ci ha messo il box, si è messo in pratica nella curva sua dove la casa erano tutti a voce, quindi entrava sempre il box e i colleghi suoi chiamavano, lui non riusciva a rispondere perché con le cuffiette non sentiva l'accidente, non sentiva. Ma quasi dove mezzo di risate mi sono fatto, gli ho detto ma perché togliete la parecchia e poi l'imbecille, io vedo. Io dove la curva non va, io detto, ma vedi che se li mettete il box, io lo sento, detto, ma quel morto senta, gli ho detto, vivente. Finché dopo un po' se ne sono accorti e gli hanno attaccato l'apparecchio, era una curva di esaltati, tutti a cosa, cantando, fischiando, cosa. Beh, entrava il box e non c'è, ogni tre secondi entrava il box, lui, il collega suo aveva lui da chiamarlo in corso, in PMR, esatto, mi sono fatto qua. Io vi devo salutare che sono venuti a prenderci. Ok, ci sentiamo alla prossima, ciao ciao a tutti. Ciao, alle prossime, ci sentiamo. Ok, ciao a tu, alle prossime dai. Buona serata, buon proseguimento di serata, alle prossime, ciao ciao a tu. Grazie per la compagnia. Vai Antonio. E saluto tanto. Ah, cosa Antonio? Ciao Antonio, ci sentiamo, buona passeggiata, buon tutto. Stare bene. Avanti Torino. No, Tonino ha chiuso, aveva da fare, Tonino ha chiuso poc'anzi, ci siamo salutati poc'anzi, per cui va bene. Stavo dicendo, tu che hai l'apparecchio professionale, se mi dai un piccolo controllo, visto che io non ne chiedo quasi mai a nessuno, ma con l'apparecchio professionale mi può interessare, con questi 2 watt come sono in questo momento, controlla il meter, Antonio, e poi il secondo passaggio così, sempre con questa radio, ecco, questo è un segnale che mi dovrai dare, e questo è un altro così, questo è il minimo. Avanti Antonio, grazie comunque. Sì, 9,5 e quando attacchi 9,10. Ok, no, non attacco, è solo la potenza della radio. C'è un potenziometro, aumenta la potenza con quello, niente di più. Non attacco niente, non ne ho di lineare io. Allora, ho questo, il baracchino e l'alimentatore, basta, niente di più. Solo che riesce a dare appena di più quando lo mando a massimo, diciamo, tutto lì. E va bene, comunque sono contento. Cioè, siamo abbastanza lontani, tra me e te c'è una bella distanza, grosso modo, non dico 10 km, ma più o meno così, a di circa. Ci dubiti, no, siamo neanche 5, da qua a Monteoro in linea siamo vicini, non è che siamo lontani, siamo di fronte in pratica, tu figurati se vado tutte le villette che sono lì vicine a ripetitori con la veletta bianca, tutto vero, le strade che salgono, scendono, la strada della chiesa, tutto vero da qua. Certo, sì, tu sei in alto, ma io sono nella vallata, capito? Io rispetto a Sassari sono 90 metri, 95 metri, mi sembra, sì. Allora, 130, 225, 95 metri sotto il livello di Sassari sono io, perché io sono praticamente nella vallata della zona dove sono io, capito? Ho capito dove sei, eh. Sei dietro in pratica. Ma te immagini come sta arrivando la propagazione, fortissima. Già la sento, gli americani si sentono, ma ormai c'erano dei problemi ieri, hanno detto il brillamento eccetera eccetera del sole, e anche le propagazioni 9 più 20, 9 più 30 degli americani. Io ho detto, a che posto di brillamento del sole, quando il sole comincia ad avere i numeri qua, c'è la propagazione di come vuoi tua. Sì, sì, sì, no, ma l'ho notato, c'è una propagazione tutto il giorno, anche la notte addirittura c'è propagazione, l'ho notato, soprattutto sul canale 11, cioè il canale a fianco a questo, io tutte le volte che accendo c'è sempre propagazione e gente straniera, che non capisco niente quello che dicono, però li sento sempre, sempre, a qualsiasi ora che accendo c'è sempre questa ruota che si parlano sul canale 11, propagazione straniera, non so da dove arrivino, però li sento anche discretamente. E li sento anch'io, quindi non è quello il problema. Anche su nome addirittura, parlo in spagnolo e già li sento, arrivano 9, 9, 10, deve essere gente da cioè propagazione dalla, cosa ti posso dire, magari dall'America Latina, quello che è. Nella posizione dove sei tu, lì è una posizione eccezionale, lì senti tutti dappertutto, in alto come sei, tu sei all'altezza di almeno 400 metri sopra il livello del mare, perché se consideri che Sassari è 225 metri, a livello che so io, di carica, anche di meno, dai, un po' prima di carica, andando da qui, e tu a guardare il mare su, sì, almeno a 400 metri sopra il livello del mare, altro che se ne hai ricezione, moltissima ricezione hai lì. Beh, quasi, mi sembra sono quasi 500, una cosa del genere. Qui siamo in una sala 129 che ti porta dove c'è l'acquedotto, lì sono quasi 500-600 metri, insomma, una cosa del genere. È alto lì, capito? Infatti l'altro giorno sono andato a svuotare un coso, una casa, si è completamente allagata, si maglia, allagata la taverna, il coso, tutto si è allagato quando hanno fatto quella pioggia, perché questo si è messo in punta a fare la villetta, poi il garage aveva fatto delle discesone insieme alla taverna, quindi tutta l'acqua non scesa dentro, è abituato dell'acqua, ovvia. E sono entrato che sembrava un pulcino, no? Sono stato a casa un giorno perché c'avevo un freddo cane addosso, tutto bagnato, pantaloni, giubbotto, e il giubbotto non si poteva neanche pesare, pensava più il giubbotto che io, gira, come per l'acqua in pieno. In 5-10 minuti ha fatto, non ti posso dire, l'acqua di un mese ha fatto in pratica, immediatamente mi ha bagnato tutto, testa, piedi, scarpe, via Napoli non si poteva passare, sembrava un fiume in piena, sembrava. Già lo credo, quando fa pioggia così forte, 52 mm ha fatto, così hanno detto al meteo, a Sassari 52 mm di pioggia, poi ci sono posti che altro che 52 mm sono, 52, praticamente 5 cm e 2 di corso, sì. Non so, purtroppo così, quando arrivano queste calamità così, ma anche qua in certe zone, cioè nella parte ancora più in basso di dove sono io, giù, ogni tanto in tanto quando piove così forte si allagano qualche cantina, qualche cosa, si allagano, perché arrivano delle piogge torrenziali proprio qua, che bisogna stare attenti, insomma, ecco. E adesso la cotta, infatti, adesso la cotta, per carità. ormai ci abbiamo il tempo come ci abbiamo, io ci ho lasciato la manta, ma ci ho lasciato, infatti no, ho staccato del tutto, ho detto, ma non è detto più andare così, no? 7 metri di lunghezza, e sono in mezzo al triangolo del muro, ce la faccio, cazzo. Non riesco più, non me ne frega più niente, a me la manta da performante, lunga 7 metri, pesa 3 kg, eccetera, eccetera, aspetta un'altra cosa da dire, ho preso, l'ho regalata a un amico, e tu guarda, arrangiati tu, sistematela tu, dato lo stile nuovo, nuovo, ho detto, la metto vecchia, pertanto, ho detto, la base, pertanto, l'unica cosa, ho detto, voglio sistemare, ho detto, solo la bobina, in terra che c'ha, gliela fai fare nuova, gliela fai fare piano piano e te la ripiazzi, io ho detto, forse ti busco una base di mantova 5 e la volta ne fai una, io ho detto. Bobetta! Luca! Sono ritornato, sono qua, io ho già, si può dire cenato, ho già un panino, c'avevo fame, poi non mangio altro. Non è stato bene mangiare prima, no, io di solito mangio alle 7:30, quindi mangio, sono solo anche io quello che ho mangiato, a parte ho mangiato due cotolette di pollo, mi sono mangiato un po' di pugne e poi mi sono bevuto la birra, due Bavaria, piano piano, e poi mi sono andato a fare un giro e a piedi insieme al cane. E poi sono tornato a casa, mi figurate tu. E adesso, dopo verso le 7:30, le 8, faccio la cena a Simona, faccio la cena anche a me, ceniamo e vediamo un po' cosa capo cenare. Qualcosa di leggero, tanto pensate di andare a digerirla. Bravo Antonio, dai, io ti devo lasciare. Ciao Luca, sei ritornato. Ti lascio con Antonello, dai, io devo fare la terapia, per cui ti devo lasciare, dai. Sono già le 7:10 quasi, 7:07. Per cui devo lasciare il baracchino e scendere giù, preparare il tutto per poi fare appunto la cura che devo fare sempre. Ci sentiamo. Ciao Antonello, grazie per la chiacchierata. Alle prossime, dai, fatti sentire. Ciao Luca, fatti sentire anche tu, così cerchiamo di ritornare alla grande in frequenza tutti quanti, così almeno la rimettiamo in sesto, la rimettiamo. Ciao Luca, riprendi, ascolto il finalino, poi chiudo. Sì, ciao Giulio, alla prossima, buona cena. Ci sentiamo, dai, avanti, buon. Ehi, ciao Giulio, ci sentiamo. Buon quaretti. Alla prossima, buona cena, buon tutto. E allora Luca, oggi a casa di riposo. Sì, allora, come mattina devo alzare alle 5:30, devo andare al lavoro. Poi, come smonto lì, devo andare a fare l'altro lavoro e finisco alle 17. Dai, già va bene, non dico così, già va bene. No, io devo andare a Lima domani mattina presto, verso le 6:30, 7, fare il cambio dell'esenzione. Poi devo passare alla finanza perché avevo tirato un pacco e a posto di arrivarmi il pacco di un baracchino mi è arrivato un pacco di un martello e 5 cacciavitti a questa ditta, capito? Devo fargli la rinuncia. Cosa devi fare? L'esenzione? Ehi, all'esenzione, sì, bravo, l'esenzione 503. Ma tu o di Simona? No, no, per me. No, capito, se va bene, dai. Già va bene. Io ci ho fatto lo E02, ci ho rassicurato, ma ce l'ho pochi giorni, capito? Ce l'ho pochi giorni e niente. Me l'hanno rifatto. Sì. Vabbè, comunque. Io vabbè. Boia. Oh, c'è freschetto, eh. Ah, ma questo è la temperatura. Ma domani ha messo 28 gradi. Ma fino a poco fa si stava bene, adesso no. Poco fa, intorno alle 5:30, si stava bene, c'era Caldo, per la parola di caldo c'è. Forse è a me sono solo va bene meglio così. A me non so caso, perché ho iniziato a pensare cazzo con la maglietta lunga, con la conta, e poi la mattina specialmente ti piglio, capito? C'è fresco, poi arrivi alle 11, ma del giorno comincia il caldo, quindi è un casino, ti prendi malanno. È vero, si conferma. Vabbè. C'è caldo, perché c'è caldo, adesso che c'è freschetto, c'è freschetto. E fu suo, e ho trovato 500 lire alle 1000 lire moneta. Allora, conservo, possono servire, boh, domani, chissà. Lì ce l'ho anch'io quelle, io ho 500 lire, ce l'ho 300 lire, c'ho quelle le monete del fascio, c'ho un marsupio intero di quelle monete, ho trovato tutte in campagna, capito, quando avevamo fatto gli scalzi, che avevo fatto scavo per la casa, c'ho un coso di monete, di tutto c'ho di più dentro. L'unica cosa che è nata sono quelle monete da 500 lire in argento, non valeva un cazzo. Se andavi su Google, valgono 3.000 euro, 4.000 euro, quando l'ho portata, hai detto, guarda, ti posso dare solamente il peso della moneta, mi ha detto, in argento, ti posso dare altro. Ho detto faccia come vuoi, ho detto basta che mi ha dato, mi sembra 15-20 euro, non di più. Ma noi, vabbè, che ci vuoi fare, purtroppo, un casino, via, un casino, vabbè, comunque, già ne manco, c'ho il quadretto, io c'ho le 5 lire, le 10 lire, ne ho, fatto il quadretto, le 1000 lire, già rimangono lì. Quelli, non so, poi con gli anni, se avranno un valore, non adesso, fra 20 anni, se sarò vivo ancora. Se fra 20 anni ho 70 anni, vedi tu. Oh, yeah. Dipende da domani cosa succede, il 7 di ottobre, cosa vuole fare l'Iran con gli ebrei, capito? Quindi per ora che non è la prima di fare una sorpresa agli ebrei, cazzo. Chi non sa che missile nucleare è alle vinitumi. Gli americani non ci possono fare un cazzo, una volta tirato quel missile lì, loro possono anche bombardargli quello che vogliono all'Iran. Basta che hanno distrutto, basta solamente uno o due missili di quelli che fatto. Il coso non esiste più uno stato, il discorso è quello. Con i soldi che ci hanno, sono sicuro che loro ce l'hanno, ma ce l'hanno magari bene nascoste e conservate quella cosa lì. O magari gli era data la Russia, intanto si scambiano le cose qui a un certo punto, questo anche capirlo. Non sono il padrone, come sai? Beh, c'è. C'è Gianni, aspetta un attimino. Non ho capito, c'è Gianni? Aspetta. Yes. Yes. Oh, un po'.